Capitolo 5. Maggio. Salsiccia del Nord. Ingredienti: 5 kg di lombo di maiale, 2 kg di scarti di maiale, 1 kg di peperoni secchi e affumicati, 60 g di comino, 60 g di origano, 30 g di pepe, 60 g di chiodi di garofano, 2 tazze di spicchi d'aglio, 2 litri di aceto di mele, 250 g di sale. Preparazione. Si mette sul fuoco una pentola con l'aceto e i peperoni privati dei loro semi. Appena l'aceto comincia a bollire, si toglie la pentola dal fornello e la si copre con un coperchio per far ammorbidire i peperoni. Cencia mise il coperchio sulla pentola e si precipitò nell'orto ad aiutare Tita nella ricerca di lombrichi. Da un momento all'altro sarebbe arrivata in cucina mamma Elena a controllare la preparazione della salsiccia e la preparazione dell'acqua per il suo bagno. Ed entrambe le operazioni erano abbastanza in ritardo. Il fatto è che Tita, dopo che Pedro, Rosaura e il bambino si erano trasferiti a San Antonio, in Texas, aveva perso ogni interesse per la vita, tranne quello per un piccione indifeso che nutriva a lombrichi. Per il resto sarebbe potuta anche crollare la casa senza che lei se ne preoccupasse. Cencia non voleva neppure pensare a cosa sarebbe accaduto se mamma Elena fosse venuta a sapere che Tita non voleva partecipare alla preparazione della salsiccia. Avevano deciso di farla perché era uno dei modi migliori per utilizzare la carne di maiale, conservandola a lungo senza il rischio che andasse male. Da quel maiale avevano ricavato una gran quantità di carne secca, prosciutto, lardo e molto strutto. Dovevano sfruttarlo fino in fondo, poiché era una delle poche bestie sopravvissute alla visita che i soldati dell'esercito rivoluzionario avevano fatto qualche giorno prima. Il giorno in cui erano arrivati i ribelli, nella fattoria c'erano soltanto mamma Elena, Tita, Cencia e due braccianti, Rosalio e Guadalupe. Nicolas, l'amministratore, non era ancora tornato con il bestiame che era andato a comperare, perché mancando il cibo avevano dovuto macellare molti animali che era necessario rimpiazzare. Si era portato con sé due braccianti più fidati per farsi aiutare. Aveva affidato la fattoria a suo figlio Felipe, ma mamma Elena l'aveva esentato dall'incarico, aveva preso lei il comando, perché aveva mandato Felipe a San Antonio a chiedere notizie di Pedro e famiglia. Si temeva che fosse accaduto qualcosa di brutto, visto che non avevano più ricevuto notizie dalla loro partenza. Rosalio giunse al galoppo per annunciare che un drappello di ribelli si avvicinava alla fattoria. Immediatamente mamma Elena prese il fucile e mentre lo puliva pensò di nascondere all'avidità di quegli uomini gli oggetti più preziosi che possedeva. Le informazioni che aveva ricevuto sui rivoluzionari non erano affatto buone, ma neppure affidabili, dato che provenivano da padre Ignacio e dal sindaco di Piedras Negras. Da loro aveva appreso che i rivoluzionari entrano nelle case, razziano tutto e violentano le ragazze che trovano. Di conseguenza aveva ordinato che Tita, Cencia e il maiale si nascondessero in cantina. Al loro arrivo, i rivoluzionari trovarono mamma Elena sulla porta di casa. Sotto le gonne nascondeva il fucile e Rosalio e Guadalupe erano al suo fianco. I suoi occhi si incrociarono con quelli del capitano che aveva il comando e questi capì immediatamente, per la durezza del suo sguardo, di essere di fronte a una donna di tutto rispetto. Buonasera, signora, è lei la padrona di questa fattoria? Proprio così, che cosa volete? Veniamo a chiedere con le buone la sua collaborazione alla causa. E io, con le buone, vi dico di prendere dal granaio e dai cortili tutto quello che volete. Ma attenzione, le cose di casa non si toccano, capito? Perché quelle servono alla mia causa privata. Il capitano, scherzando, si mise sull'attenti e rispose: Ho capito, generale. Tutti i soldati risero della battuta e divennero allegri, ma il capitano capì che con mamma Elena le frasi scherzose non avevano effetto perché lei parlava seriamente, molto seriamente. Facendo il possibile per non lasciarsi impaurire dallo sguardo autoritario e severo di lei, ordinò che ispezionassero la fattoria. Non trovarono molto, qualche pannocchia di mais e 8 galline. Uno dei sergenti, alquanto seccato, si avvicinò al capitano e gli disse: La vecchia deve aver nascosto tutto in casa, mi lasci entrare a vedere. Mamma Elena, con il dito sul grilletto, rispose: Non sto scherzando, ho già detto che in casa mia non entra nessuno. Il sergente, ridendo, e facendo dondolare le galline che aveva in mano, si avviò verso la porta. Mamma Helen alzò il fucile, si appoggiò al muro per non cadere a terra a causa del rinculo e sparò alle galline. Tutti intorno volarono pezzi di carne in mezzo a una puzza di piume bruciate. Rosalie e Guadalupe impugnarono tremando le pistole, fermamente convinti che fosse giunto l'ultimo giorno della loro vita. Il soldato, che si trovava vicino al capitano, fece per sparare a mamma Elena, ma il capitano lo fermò con un gesto. Tutti aspettavano un suo ordine per attaccare. «Ho una buona mira e un cattivo carattere, capitano. Il prossimo colpo è per lei e le assicuro che posso spararle prima di venire uccisa. Quindi è meglio che ci rispettiamo, perché se dovessimo morire nessuno sentirà la mia mancanza. Ma certamente la nazione sentirà molto la sua, non crede?» Era veramente difficile sostenere lo sguardo di mamma Elena, anche per un capitano. Vi era qualcosa che incuteva timore. L'effetto provato da chi lo subiva era di indescrivibile paura. Il malcapitato si sentiva giudicato e incolpato di ogni genere di mancanze, più o meno commesse. Veniva colto da un'infantile paura dell'autorità materna. Sì, ha ragione, ma non si preoccupi, nessuno la ucciderà né le mancherà di rispetto, ci mancherebbe altro. Una donna coraggiosa come lei avrà sempre la mia ammirazione. E rivolto ai suoi soldati, disse: Che nessuno entri in questa casa. Vedete di trovare ancora qualcosa qui fuori e andiamocene. Tutto quello che riuscirono a trovare fu la grande colombaia che si estendeva lungo i due spioventi del tetto dell'enorme casa. Per raggiungerla bisognava salire su per una scala alta 7 metri. Tre ribelli vi salirono, ma rimasero perplessi per un bel po' prima di proseguire. Erano meravigliati dalla dimensione della colombaia, dall'oscurità e dal tubare dei colombi che entravano e uscivano da piccole aperture laterali. Chiusero la porta e le aperture affinché non scappasse nemmeno un piccione o una colomba e si dedicarono alla loro cattura. Ne presero una quantità tale da sfamare tutto il battaglione per una settimana. Prima di ritirarsi, il capitano percorse a cavallo il cortile posteriore. Aspirò profondamente l'indelebile profumo di rose che ancora vialeggiava. Chiuse gli occhi e rimase così un po' di tempo. Ritornato poi da mamma Elena, le chiese: Mi risulta che ha 3 figlie, dove sono? La maggiore e la minore vivono negli Stati Uniti, l'altra è morta. La notizia parve commuovere il capitano. Con voce appena percettibile, rispose: È un peccato. Un vero peccato. Si congedò da mamma Elena con un inchino e tutti quanti se ne andarono tranquillamente, così come erano arrivati. Mamma Elena rimase molto sconcertata dal comportamento che avevano tenuto con lei. Non era il comportamento da spacconi senza scrupoli che si sarebbe aspettata. Da quel giorno preferì astenersi dal dare giudizi sui rivoluzionari, ciò che non venne mai a sapere. Fu che il capitano era quello stesso Juan Alejandres che mesi prima aveva rapito sua figlia Gertrudis. Così erano pari, perché neanche il capitano seppe mai che sul retro della casa mamma Elena aveva sotterrato una grande quantità di galline nella cenere. Ne avevano ammazzate 20 prima dell'arrivo dei rivoluzionari. Si devono riempire le galline con chicchi di grano o con dell'avena. E così come sono, si mettono in una pentola di terracotta smaltata. Si copre bene la pentola con un panno e in tal modo la carne si conserva per più di una settimana. Era questa una pratica comune nelle fattorie, fin dai tempi remoti, quando si doveva conservare la cacciagione. Uscita dal suo nascondiglio, Tita sentì subito che le mancava il costante tubare dei colombi, che fin dal giorno in cui era nata formava parte della sua quotidianità. Quell'inatteso silenzio le fece sentire all'improvviso la solitudine. Fu quello il momento in cui sentì maggiormente il distacco da Pedro, Rosaura e Roberto. Salì rapidamente la lunga scala a pioli che portava la colombaia e trovò soltanto il suo tipico tappeto di piume e sporcizia. Il vento si infiltrava dalla porta aperta e sollevava alcune piume che andavano a ricadere su di un tappeto di silenzio. All'improvviso udì un leggero pigolio. Un pulcino di piccione appena nato era sopravvissuto al massacro. Tita lo prese e prima di scendere si trattenne un momento a guardare la nube di polvere che i cavalli dei soldati avevano sollevato andandosene via. Si chiedeva incuriosita perché non avessero fatto niente a sua madre, Mentre era nascosta, aveva pregato affinché a mamma Elena non accadesse nulla di male, ma inconsciamente aveva la speranza, quando fosse uscita, di trovarla morta. Vergognandosi di tali pensieri, Tita infilò il pulcino tra i seni per avere le mani libere e potersi afferrare bene alla scala pericolosa. Scese quindi dalla colombaia. Da quel giorno la sua maggior preoccupazione fu quella di nutrire il misero piccione. Solo in quel modo la sua vita aveva un senso. Non c'erano confronti con il senso di appagamento che derivava dall'allattare un essere umano, ma in certo qual modo esisteva una somiglianza. Il suo seno si era seccato da un giorno all'altro per il dolore della separazione dal nipote. Mentre cercava lombrichi, non poteva smettere di chiedersi chi stesse nutrendo Roberto in quel momento e in che modo lo facesse. Questo pensiero l'assillava giorno e notte. Era un mese che non dormiva. L'unica cosa che era riuscita a fare in quel periodo era quintuplicare la dimensione della sua enorme coperta. Cencia riuscì a distoglierla dalle sue lamentazioni e la fece scendere in cucina a spintoni. La mise a sedere davanti al metate, ordinandole di macinare le spezie assieme ai peperoni. Per facilitare questa operazione, è bene aggiungere ogni tanto, mentre si macina, qualche goccia di aceto. E in ultimo si mescola la carne tritata fine o pestata con i peperoni e le spezie e si lascia riposare a lungo, preferibilmente una notte intera. Non avevano ancora finito di macinare le spezie che mamma Elena entrò in cucina domandando come mai la vasca per il suo bagno non fosse ancora piena. Non le piaceva fare il bagno troppo tardi, perché poi i capelli non le si asciugavano bene. Preparare il bagno per mamma Elena era come preparare una cerimonia. Si doveva far bollire l'acqua con dei fiori di lavanda, il suo profumo preferito. Poi si filtrava il decotto attraverso un panno pulito e si aggiungeva qualche goccia di acquavite. Per ultimo, si dovevano trasportare uno dopo l'altro i secchi d'acqua calda fino alla stanza scura, un bugigattolo che si trovava in fondo alla casa vicino alla cucina. Questa camera, come indica il suo nome, non riceveva neppure un raggio di luce perché non aveva finestre, ma solo una porticina. Dentro, nel bel mezzo, c'era una grande vasca dove si metteva l'acqua. Vicino, in un catino di peltro, si metteva dell'acqua con shishi, una sostanza saponosa ricavata da foglie e radici di una speciale agave, per lavare i capelli di mamma Elena. Soltanto Tita, il cui dovere era di accudirla fino alla morte, poteva essere presente al rituale e vedere la madre nuda, nessun altro. A questo scopo era stata costruita questa stanza a prova di guardoni. Tita doveva lavare alla madre prima il corpo, poi i capelli e alla fine lasciava che si riposasse un momento e si godesse l'acqua mentre stirava gli indumenti che mamma Elena avrebbe indossato appena uscita dalla vasca. A un suo ordine, Tita la aiutava ad asciugarsi e a indossare subito gli abiti ben caldi per evitare che prendesse freddo. Poi apriva la porta di un millimetro affinché la stanza si raffreddasse lentamente e il corpo di mamma Elena non soffrisse lo sbalzo di temperatura. Nel frattempo le spazzolava i capelli, guidata soltanto dal debole raggio di luce che filtrava dalla fessura della porta e che nel mettere in evidenza le forme capricciose del vapore acqueo conferiva all'ambiente un aspetto incantato. Le spazzolava i capelli fino ad asciugarglieli completamente. Quindi le faceva una treccia e finalmente si poteva considerare finita la liturgia. Tita ringraziava sempre Dio che la madre facesse il bagno soltanto una volta alla settimana, altrimenti la sua vita sarebbe stata un vero calvario. Secondo mamma Elena, con il bagno accadeva lo stesso che con la preparazione del cibo. Per quanto si sforzasse, Tita commetteva sempre un'infinità di errori. O la camicia aveva una pieghina, o l'acqua non era abbastanza calda, o la riga della treccia era storta. Insomma, sembrava che l'unica virtù di mamma Elena fosse quella di scovare i difetti. Ma mai ne trovò tanti come quel giorno. Tita, infatti, aveva trascurato tutti i dettagli della cerimonia. L'acqua era così calda che mamma Elena, entrando, si era bruciata i piedi. Aveva dimenticato il shishi per lavare i capelli. Aveva bruciato la sottogonna e la camiciola. Aveva aperto troppo la porta. Fatto sta che quella volta si era proprio meritata di venire sgridata da mamma Elena tanto da essere scacciata dalla stanza da bagno. Tita andò di corsa in cucina con gli indumenti sporchi sotto il braccio, rammaricandosi del rimprovero e dei suoi errori colossali. Ciò che la rattristava di più era il lavoro extra che l'aspettava per aver bruciato la biancheria. Era la seconda volta in vita sua che le capitava quel tipo di incidente. Avrebbe dovuto bagnare le macchie rossastre di una soluzione di clorato di potassio e acqua pura con un po' di candeggina leggera e strofinare più volte fino a farle sparire. Questo lavoro noioso veniva ad aggiungersi a quello di lavare i vestiti neri usati dalla madre. Per farlo doveva sciogliere della bile di mucca in un po' di acqua bollente, immergervi una spugna morbida e con questa bagnare i vestiti, poi sciacquarli in acqua pulita e metterli all'aria aperta. Tita fregava e fregava quegli indumenti come tante volte aveva fatto con i pannolini di Roberto per togliere le macchie. Ci riusciva facendo bollire una piccola quantità di urina e immergendovi un attimo le macchie per poi risciacquarle. Così le macchie svanivano immediatamente, ma in questo caso, per quanto immergesse i pannolini nell'urina, non riusciva a cancellare quell'orribile color nero. Improvvisamente si accorse che non si trattava dei pannolini di Roberto, bensì degli indumenti di sua madre. Sin dal mattino li aveva lasciati a bagno in una bacinella vicino al lavatoio e si era dimenticata di lavarli. Molto dispiaciuta, si diede a correggere quello sbaglio. Una volta ritornata in cucina, Tita promise a se stessa di stare più attenta a quello che faceva. Doveva mettere fine ai ricordi che la tormentavano, altrimenti la furia di mamma Elena sarebbe potuta esplodere da un momento all'altro. La salsiccia riposava da quando aveva cominciato a preparare il bagno di mamma Elena e pertanto era il momento di incominciare a insaccarla nelle budella. Devono essere budella di bue, pulite e stagionate. Per riempirle si usa un imbuto. Una volta riempite si praticano legature distanti quattro dita una dall'altra e si punzecchiano con un ago per far uscire l'aria che potrebbe danneggiare la salsiccia. Mentre si insacca è molto importante comprimere bene l'impasto affinché non rimangano degli spazi vuoti. Tita, che faceva ogni sforzo per evitare di farsi assalire da ricordi che le avrebbero fatto commettere altri errori, quando si trovò fra le mani un grosso pezzo di salsiccia, non poté non pensare alla notte d'estate in cui tutti erano andati a dormire in cortile. Nel periodo della canicola si appendevano grandi amache in cortile perché il caldo diventava insopportabile. Su di un tavolo si lasciava un orcio con del ghiaccio contenente un'anguria affettata, così se qualcuno durante la notte si fosse svegliato, accaldato e desideroso di refrigerio, poteva mangiarsene una fetta. Mamma Elena era una specialista nel preparare l'anguria. Con la punta di un coltello affilato entrava nell'anguria fin dove finiva la parte verde della buccia, così da lasciare intatta la polpa. Praticava alcuni tagli nella buccia con una precisione matematica tale che finita l'operazione bastava prendere l'anguria, picchiarla contro una pietra nel punto esatto e quasi per magia la buccia si apriva come i petali in fiore e sul tavolo rimaneva la polpa intatta. Indubbiamente, quando si trattava di tagliare, smantellare, smembrare, devastare, strappar via, salassare, disfare o dividere qualcosa, mamma Elena era maestra. Dopo la morte di mamma Elena, nessuno riuscì più a compiere quella prodezza con l'anguria. Sdraiata nella sua amaca, Tita aveva sentito che qualcuno si era alzato a mangiare un pezzo d'anguria. Si era svegliata perché doveva andare in bagno. Aveva bevuto birra tutto il giorno, non per il caldo, ma per avere più latte da dare al nipote. Il piccolo dormiva tranquillamente vicino a sua sorella. Si alzò a tentoni, non poteva vedere niente perché era una notte completamente buia. Si avviò verso il bagno, sforzandosi di ricordare dove erano le amache per non andare a sbattere contro qualcuno. Pedro, seduto nella sua amaca, mangiava l'anguria e pensava a Tita. La vicinanza di lei gli causava una grande agitazione. Non poteva dormire sapendola lì a pochi passi da lui e da mamma Elena, naturalmente. Il suo respiro si era arrestato un attimo nel sentire un rumore di passi nell'oscurità. Doveva trattarsi di Tita. La particolare fragranza che si era diffusa nell'aria, un misto di gelsomino e odori di cucina, poteva appartenere soltanto a lei. Per un momento pensò che Tita si fosse alzata per cercarlo. Il rumore dei passi che si avvicinavano si confondeva a quello del suo cuore che batteva violentemente. E invece no, i passi ora si allontanavano in direzione del bagno. Pedro si alzò come un felino e senza far rumore la raggiunse. Tita Tita si spaventò sentendosi afferrare e tappare la bocca, ma immediatamente capì di chi era quella mano e lasciò, senza opporre resistenza, che la mano dapprima scivolasse dal collo al seno e poi le percorresse tutto il corpo. Baciandola sulla bocca, Pedro prese la sua mano e l'invitò ad accarezzargli il corpo. Tita palpò timidamente i duri muscoli delle braccia e il petto di Pedro, poi giù, giù, un tizzone acceso che palpitava sotto i vestiti. Spaventata, ritrasse la mano, non per la scoperta, ma per un urlo di mamma Elena. Tita, dove sei? Sono in bagno, mammina. Temendo che la madre potesse sospettare qualcosa, Tita tornò subito a letto e trascorse una notte infernale, soffrendo perché alla voglia di urinare si accompagnava un'altra sensazione ad essa simile. Purtroppo il suo sacrificio non servì a nulla. Il giorno dopo, mamma Elena, che per un certo periodo sembrava aver cambiato idea circa il trasferimento di Pedro e Rosaura a San Antonio in Texas, affrettò la partenza e nel giro di 3 giorni riuscì a farli andar via. L'ingresso di mamma Elena in cucina mise in fuga i suoi ricordi. Tita lasciò cadere la salsiccia che aveva in mano. Sospettava che la madre potesse leggerle nel pensiero. Dietro a lei entrò Cencia che piangeva sconsolata. Non piangere, cara. Mi dà fastidio vederti piangere. Che cosa succede? C'è che il Felipe è già qui e dice che il Signore se l'è preso. Cosa dici? Chi è morto? Il bambino. Quale bambino? E quale sarà mai? Ma suo nipote. Gli faceva male tutto quello che mangiava e ora il Signore se l'è preso. Per Tita fu come se le fosse caduto un armadio in testa. Dopo il colpo sentì il rumore di un servizio di piatti rotto in 1.000 pezzi. Scattò in piedi come spinta da una molla. Siediti a lavorare, non voglio lacrime. Povero piccolo, spero che il Signore lo abbia in gloria, ma non possiamo lasciarci vincere dalla tristezza, c'è molto lavoro da fare. Prima finisci e poi fai quello che vuoi, ma piangere no, mi hai sentita? Tita si accorse che una violenta agitazione si impossessava del suo essere. Sostenne con fermezza lo sguardo della madre mentre accarezzava la salsiccia e poi, invece di ubbidire, prese tutte le salsicce che trovò e le fece a pezzi, gridando come impazzita. Ecco, cosa faccio dei suoi ordini? Sono stanca di ubbidirle. Mamma Elena si avvicinò, prese un cucchiaio di legno e la colpì in piena faccia. Lei è la colpevole della morte di Roberto, le gridò Tita fuori di sé e uscì di corsa. Asciugandosi il sangue che le usciva dal naso, prese il piccione, il secchiello di vermi e salì nella colombaia. Mamma Elena ordinò di togliere la scala e di lasciarla lì per tutta la notte. Mamma Elena e Cencia finirono in silenzio di riempire le salsicce che dopo appena una settimana vennero trovate nella dispensa dove erano state messe a seccare tutte piene di vermi. Perfezionista com'era mamma Elena, e vista la cura che metteva nel non lasciare aria dentro le salsicce, nessuno seppe spiegare come mai. Il mattino successivo, mamma Elena ordinò a Cencia di far scendere Tita dalla colombaia. Lei non poteva farlo perché l'unica cosa di cui aveva paura nella vita era l'altezza. Le era insopportabile persino l'idea di dover salire su questa scala, alta 7 metri, e aprire la porticina verso l'esterno per poter entrare. Pertanto le conveniva simulare più orgoglio di quello che aveva e ordinare a un'altra persona di far scendere Tita, sebbene non le mancasse la voglia di salire personalmente e di farla scendere trascinandola per i capelli. Cencia la trovò con il piccione tra le mani. Tita sembrava non essersi accorta che era morto. Tentava di fargli mangiare altri vermi. Il poverino forse era morto di indigestione perché Tita gliene aveva dati troppi. Tita aveva lo sguardo assente e fissava Cencia come se fosse la prima volta che la vedeva in vita sua. Cencia scese dicendo che Tita sembrava impazzita e non voleva abbandonare la colombaia. Benissimo, se è diventata matta finirà in manicomio. In questa casa non c'è posto per i dementi. Ed effettivamente mandò subito Felipe a chiamare il dottor Brown perché prendesse Tita e la portasse in un manicomio. Il medico arrivò. E dopo aver ascoltato la versione di mamma Elena, pensò di salire nella colombaia. Trovò Tita nuda, con con il naso rotto e tutto il corpo cosparso di sporcizia di piccione. Sulla pelle e tra i capelli le si erano attaccate delle piume. Appena vide il dottor Brown, corse in un angolo e si mise in posizione fetale. Nessuno seppe ciò che il dottor Brown le disse nelle ore trascorse con lei, ma verso il tramonto scese con Tita già rivestita. La fece salire sul suo calesse e se la portò via. Cencia, correndole dietro, piangendo, fece appena in tempo a metterle sulle spalle l'enorme coperta confezionata durante le interminabili notti di insonnia. Era talmente grande e pesante che non entrò nel calesse. Tita si afferrò ad essa con tanta forza che non ci fu altro da fare che trascinarla come un enorme caleidoscopico strascico da sposa lungo 1 chilometro, proprio per il fatto che Tita aveva usato ogni tipo di lana che le era capitato fra le mani, senza badare al colore. La coperta era un miscuglio di tinte, trame e forme che comparivano e scomparivano, come per magia, nel monumentale polverone che sollevava lungo il percorso. Continua. Prossima ricetta, miscela per fare i fiammiferi.